Vai Milan, vai, vai, inizia la puntata prima che il mercurio nelle vene mi trasformi in un robot e il 5G mi devasti. Dai Milan, vai! Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Siamo qui a chiudere questa settimana di Uno Nessuno 100 Milan, cari ascoltatori, venerdì 3 luglio, fino alle 11 in diretta con voi, con la nostra redazione composta da Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. C'è l'Alpino in regia, a fianco a lui c'è Laura Faggin, che ringrazio, e signori, è venerdì, ormai la sapete la formula. C'è... Le mia lenede, le venerdì. E questo è venerdì e c'è Mario Calabresi. Buongiorno caro Mario, eccoci. Ciao, qua, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ma senti, Mario, in regia serve a controllare, sì, l'Alpino? Secondo me sì, perché l'Alpino ogni tanto, vero, vedi che fa partire dei file, esatto, degli audio, esatto, non richiesti, così. È infatti come il commissario, non si politico. No, non si... controlla. Infatti non si vede, ma è partito uno schiaffone da Laura Faggin a Peter Bescapè per questo file che ha mandato in onda. È lì che lo controlla. Va bene, signori, esatto, ci siamo con voi. Caro Mario, voglio subito partire perché ti voglio sottoporre un problema che mi è arrivato via mail poco fa. Vai. Tremo. Enthusiasm about the future. Perché mi è arrivata una mail da Anderlecht poco fa dicendo che ho appena vinto $550,000 da una, sì, Zim Commission. Eviterei di aprire la mail e la butterei via subito, senza aprirla. Dici? Senza aprire file, fare, allegati. No, perché chiedendo, guarda, io, senti, io rispondo, cioè nome, cognome, guarda qua, Mario Calabresi, certo, numero di cellulare 33, non so, mi è appena arrivata. Oh, si comincia bene il venerdì, apri la mail, arrivano $550,000. Esatto. Non è male, vabbè. Allora, signori, ci siamo. Oggi da Mario Calabresi tutti attendiamo una sola risposta, perché ti faccio sentire due audio. Il primo è un po' lungo perché Conte, il Premier, parla in maniera... da Presidente del Consiglio, cioè imparato. Allora, la domanda è: la maggioranza è solida oppure no? Senti Conte. La maggioranza è compatta, certo che è compatta, lavoriamo tutti i giorni su vari fronti e lo vedete anche col decreto rilancio. È stato fatto un grandissimo lavoro. Abbiamo portato in Parlamento, abbiamo offerto in conversione due, forse anche tre manovre di bilancio. Io ringrazio ancora una volta tutti i parlamentari che hanno lavorato. Ringrazio i parlamentari. Il finale è interessante, senti, perché dice: siamo uniti, non leggete i giornali praticamente. Quindi, senti, se volete misurare la maggioranza, misuratela sul lavoro concreto che ha fatto, non in termini astratti sui titoli dei giornali. Ecco, ti sottopongo allora anche Salvini, che di fronte a possibili crisi di governo e un nuovo governo con Berlusconi che si offre come stampella, diciamo così, per sorreggere la maggioranza, Salvini dice no, niente inciuci, vai. Non esistono le condizioni per un inciucio e quindi la via sono le elezioni. Siamo d'accordo con Forza Italia. Quindi siamo in cerchio chiuso rispetto all'intervista. Per me non si è mai aperto. Parliamo di vita vera, non di comunicati stampa. In questo poi Salvini è sempre abile a dire: parliamo di vita vera, come se a lui non interessassero queste questioni politiche, in realtà interessano. Mario, che succede a settembre? Si vota, non si vota? Ah, guarda, se tu mi chiedi se la maggioranza è forte, unita e compatta, ti rispondo di no. È piena di malessere, di distinguo, di divisioni diverse su un sacco di cose, se prendere i soldi europei del MES, come linee di tendenza avere per il futuro. E qui ti dico no, se mi dici, come hai detto prima, si vota a settembre, dico di nuovo di no, sono due no, non si vota a settembre, no. Quindi, perché che succede? Cioè, perché il rischio è la palude, Ma alla fine si metteranno d'accordo, andranno avanti. Beh, immagina due cose. Uno, votare significa Significa per esempio per il Movimento 5 Stelle certificare che non è più il primo partito, perché non ci dimentichiamo che oggi in Parlamento è di gran lunga il primo partito. Significa passare dalle urne, dimezzare il numero dei parlamentari ed essere il terzo, forse quarto partito, perché la Meloni è talmente in crescita che rischiano di finire testa a testa. Quindi questo è una cosa che vogliono evitare in tutti i modi. Conte, che oggi si sente molto forte, se ci fosse però un allargamento di maggioranza, nuove formule, soccorsi di Berlusconi, altre cose diverse, passerebbero, un governo diciamo più istituzionale passerebbe anche per il cambio del primo ministro. Quindi alla fine non è interesse né dei 5 Stelle né di Conte. Idem il PD ha fatto la scelta di andare al governo con i 5 Stelle in nome di una stabilità ed è rimasto e ha ingoiato anche cose che non amava per quel senso di responsabilità. Primo, secondo, perché voleva tornare al governo e non vuole vedere Salvini, e pur di non vedere Salvini al governo digerisce i 5 Stelle, per cui tutto questo perché si dovrebbe votare? L'unico che vuole le elezioni è Salvini. Che vuole tornare, diciamo così, a un anno dal papete, forse si è davvero pentito di quell'estate un po' pazza, no? Tramonito, sembra 10 anni fa. È vero. Ma questo è il coronavirus. È successa talmente tanta davvero roba quest'anno che... Sì. Che sì. Tutti segnalano, ieri lo faceva il Quotidiano Nazionale, oggi Libero torna sul fatto che pur di non cadere Conte sta cercando di puntellare la maggioranza al Senato, e questa cosa che mi ha più incuriosito da due giorni è il tentativo di accaparrarsi il voto dell'SVP, che porta credo 3 senatori, per cui quelli dell'SVP, cioè Alto Atesini, hanno detto va bene, allora noi però ci devi dare una serie di concessioni, tra questi la licenza di abbattere orsi e lupi. La politica è anche questa, Mario, tu l'hai vista, ognuno porta avanti le proprie istanze elettorali e tra le varie istanze l'SVP dice vogliamo anche questo, l'abbattimento degli orsi e dei lupi. Sì, mi colpisce nel dettaglio, non mi scandalizza nella cosa generale. Se uno vuole capire la politica consiglio sempre di guardare un film già premio Oscar, Lincoln, su come il presidente americano che abolì la schiavitù, sì, quello della guerra di secessione, riuscì ad avere i voti in Parlamento per abolire la schiavitù. Fu un comprare voti in cambio di tu vuoi quella cosa lì per il tuo collegio elettorale, te la do, tu vuoi quell'altra, quell'altra, e riuscì a portare a casa i voti per fare una riforma storica americana. È questa la politica. Però prima di venire alla nostra ospite che parla di un'altra tematica molto seria, ti voglio far, visto che tu hai detto PD 5 Stelle, no? Questa alleanza che per molti è rimasta strana, sai chi ha pagato tutto questo? Per me questo è abbastanza incredibile. Toninelli, ti faccio sentire un audio. Toninelli, dico all'Alpino in regia, il secondo di Toninelli, quello che il nostro Nespoli ha nominato Toninelli sbrocca. Perché? Perché stava bevendo un caffè comodamente e sono arrivati alcuni che si definiscono noi siamo della borgata a rinfacciargli questa alleanza PD Movimento 5 Stelle, proprio a lui che ha perso il ministero peraltro, e Toninelli a un certo punto è impazzito, senti qui. Pensatela come cazzo volete voi, pensatela come volete niente voi, perché sei qua per aggredirmi in 10 e dire sì, perché io mi dimezzo lo stipendio da 7 anni che sono lì dentro, e sto difendendo i tuoi interessi, e non mi viene a rompere i coglioni insieme al vitalizio. I nostri interessi, certo se ne vanno. Ma se mi dici che cazzate, mi taglio lo stipendio da 7 anni e mi viene a rompere i coglioni. Proprio Toninelli, Mario, che gli ha detto noi siamo della borgata, non è che noi siamo qui. Proprio poveretto Toninelli, lui che ha perso pure il posto al ministero, si è visto rinfacciare questa cosa e ha sbroccato, ecco come si suol dire. Va bene, parliamo di una cosa molto più seria. Tutte e due le alleanze dei 5 Stelle erano assolutamente innaturali. Era innaturale quella con la Lega, così come è innaturale quella con il PD. Un partito che doveva sovvertire il sistema, aprirla come una scatoletta di tonno, cambiare completamente il modo di fare la politica, alla fine, siccome poi il meccanismo è il meccanismo parlamentare, bisogna fare gli accordi in Parlamento, bisogna trovare una maggioranza, alla fine ha dovuto fare due cose che sono entrambe contro natura, contro la loro natura. Allora, caro Mario Calabresi, adesso io noi abbiamo già trattato questo argomento quando abbiamo ospitato il presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, che aveva proposto per i medici di famiglia che si erano ammalati, alcuni hanno perso la vita, un risarcimento. Risarcimento che, se si è capito bene, non ci sarà, perché qui c'è anche una cosa molto strana, cioè se tu sei un medico e lavori in una struttura privata o pubblica, sei coperto dall'INAIL per gli infortuni, se sei un medico di famiglia invece e ti ammali o nel caso perdi anche la vita, non ci sono coperture. Credo che tutto questo lo porti dentro con il dolore di aver perso peraltro il marito, Lucia Barbieri, che salutiamo e ringraziamo di essere qui. Lucia Barbieri, buongiorno. Grazie. Buongiorno. Perché lei ha perso un marito, Gian Domenico, sì, medico di famiglia nel Mugello, morto, sì, per il coronavirus. Sì, esatto. E quando è successo? Ci può, lo so che è dolorosa la vicenda, ma ce la può riepilogare per gli ascoltatori? Allora, lui è morto il 2 di aprile, è stato ricoverato al Policlinico di Careggi dal 16, dopo aver avuto una malattia, aveva questi sintomi molto sfumati, febbriciattola, molta astenia, però non aveva tosse, non aveva nessuno di quei sintomi che poi qualcun altro ha avuto. Il problema è che lui la prima settimana che non stava bene ha chiesto un tampone al collega del Mugello, che è dell'ufficio di igiene del Mugello, e lui gli ha detto: ma sei venuto in contatto con persone col Covid? Lui ha detto: ma che io sappia no, anche perché questa è una domanda idiota da fare, perché un medico che è venuto in contatto con persone di cui sa essere positivi al Covid si automette in quarantena, perché questa è la regola. Lui gli ha detto: ma allora sarà un'influenza, così non te lo mando, non ti mando l'ambulanza per fare il tampone. E lì, secondo me, abbiamo perso una settimana che gli è stata fatale. Perché poi si è aggravato. Per forza, perché poi, capito, la polmonite interstiziale chiaramente va avanti e poi sì, diciamo che il problema iniziale è stato una sottovalutazione in generale da parte di tutti, anche tutti i virologi che pontificano dalle radio e dalle televisioni. All'inizio hanno detto: ma è poco più di un'influenza, morirà qualcuno anziano, come se qualcuno anziano può essere considerato comunque sacrificabile, carne da cannone, capito? Quindi io su questa impostazione iniziale di sottovalutazione, no, è chiaro, di quel danno. Ci faccia capire, ovviamente non c'è nessun tipo di riconoscimento di indennità, perché non è considerato un infortunio sul lavoro. Lui ha un contratto strano, quello della medicina di base, libero professionale, però sono sottoposti a tutte le cose che la ASL vuole, cioè la spesa sanitaria deve essere contenuta, gli orari devono essere orari come se fosse indipendente, devono fare gli aggiornamenti, cioè praticamente è un contratto che è favorevole soltanto all'ASL. Qui effettivamente Mario, è abbastanza incredibile, cioè ci sono dei medici di serie A e dei medici di serie B, dal punto di vista è innegabile. Cioè ci sono due assicurazioni diverse, i medici degli ospedali, quelli che fanno parte, diciamo, direttamente come contratto della sanità pubblica, hanno l'INAIL, gli altri, mi corregga signora se sbaglio, suo marito aveva invece un'assicurazione privata, una sua assicurazione, non aveva l'INAIL, corretto? Mio marito aveva un'assicurazione vita, della quale io sono stata già risarcita, aveva due polizze infortuni con due grandi compagnie. E queste due grandi compagnie mi hanno detto che non è un infortunio, anche se INAIL lo classifica come infortunio sul lavoro, la ASL di Firenze lo classifica come infortunio sul lavoro, dicendo che manca la solita cosa, la causa violenta esterna ed improvvisa. Ora io mi domando se una polmonite bilaterale interstiziale non sia una causa violenta. Perché ci doveva essere un graffio, diciamo ci doveva essere una cosa esterna. Ecco. Cioè se ci fosse stato un graffio... La questione è sul tipo, il fatto che le assicurazioni private, mentre l'INAIL a tutti i medici lo riconosce, i medici di famiglia, di base sul territorio, così come per esempio i dentisti anche, le assicurazioni private non riconoscono questo. Allora ci sono due strade. So che l'INAIL ha messo in piedi una sorta di tavolo per studiare, un tavolo di discussione con le assicurazioni private da un lato, dove penso però così che non ne trarranno molto, perché le assicurazioni private a quel punto rischiano di dover risarcire anche tutti quelli che di Covid sono morti ma non erano medici. Il problema qui è mostrare che uno lo ha fatto perché è morto, perché ha fatto un lavoro, mentre tutti noi stavamo a casa e ci proteggevamo, loro stavano sulla frontiera più esposta. Mario, il fatto di essere il medico di base già è un'ovvietà. Dovrebbe essere un'ovvietà il fatto che un medico di base riceveva le persone, rispondeva. Sì, no? Sì, poi mio marito era uno che andava ha continuato a stare disponibile. Alla vecchia maniera, capito? Quindi non telefonica, non faceva solo consulti telefonici, andava in casa di riposo, quindi... Infatti, e quindi da questo punto di vista, visto che adesso anche il Parlamento è investito, mobilitato, Ministra del Lavoro, Ministro della Salute, eccetera, eccetera, il punto è o che lo Stato decide che questi medici che sono morti sono più o meno 170-180, si spostano a carico dell'INAIL, oppure si fa un fondo presso il Ministero della Sanità che fa i risarcimenti, perché pensare, allora, io trovo che queste persone sono state come gli altri medici sul fronte del Covid e che non abbiano nessun risarcimento le famiglie, è una cosa che non può stare in piedi, evidentemente. No, le volevo dire che c'è un fondo istituito dal dottor Diego Della Valle, che è un fondo che ha raccolto diversi milioni di euro, però visto che ci sono diversi milioni di euro, ovviamente la protezione civile si è fiondata sopra dicendo no, questa cosa la dobbiamo gestire noi, perché i privati con privati non possono gestire. Io lascio ogni commento a questa cosa, ma ognuno di noi sa dove poi si vuole arrivare, capito? Perché se lo Stato entra su una cosa privata perché è una borsa succulenta, si capisce perché lo vuole fare, capito? Quindi, sì, c'è da dire, signora Barbieri, signora Lucia, che questo paese ha assistito effettivamente a due fasi, in un periodo in cui erano definiti, perché siamo il paese anche un po' della retorica, gli eroi, sì, poi sì. Alla fine uno si guarda allo specchio, lei si alzerà tutte le mattine e dice eroi, mio marito non c'è più. È la situazione a cui devo far fronte, cioè, è questa. Mi interessa fino a un certo punto, ma siccome io ho una figlia laureata con un master che è in cerca di prima occupazione e questo paese va come va soprattutto ora, io mi devo salvaguardare soprattutto lei, capito? Non tanto me. È per questo che io mi sto battendo e sto cercando in tutti i modi che questa cosa venga fuori, un po' per lui, perché io a lui glielo devo, ma anche per mia figlia. No, ma noi, signora Lucia, la ringraziamo, ecco. Poi è sempre, Mario, difficile scavare anche in situazioni di dolore, visto che insomma la perdita è così. Il dottor Calabresi lo sa bene cosa vuol dire. Grazie, l'abbraccio, signora. A lei un grande abbraccio, signora Lucia. Però, Lucia Barbieri, ripeto, Alessandro, Gian Domenico Iannucci. La soluzione è evidente che non sta comunque sia nella generosità o nella beneficenza privata. Esatto, il fondo di Diego Della Valle è un paese che sta parlando di spendere una quantità di miliardi mai vista e che si preoccupa di fare l'incentivo per il monopattino elettrico, insieme all'incentivo per il monopattino elettrico faccia la fatica di trovare i soldi per dare un risarcimento a quei medici che hanno continuato a lavorare durante il Covid, ma che siccome non erano in ospedale non ricevono nessun tipo di indennizzo. Sì. No. O per capire come aiutare quella che viene definita, sai che oggi Repubblica definisce la generazione Covid, ma c'è nel mondo, per carità, cioè c'è uno spaventoso aumento della disoccupazione giovanile e si parla di persone che avevano un lavoro, cioè non disoccupati perché non lo trovavano prima, di giovani che hanno perso o perderanno il posto di lavoro. Allora, se adesso non si vuole fare la contrapposizione generazionale, però se il futuro è dei giovani, ma i giovani sono quelli più penalizzati, il futuro lo vedo un po' grigio, insomma. Questo è la ripartenza. Sottolineo una cosa, lo voglio sottolineare perché per chiudere questa prima parte, caro Mario, visto che si parla molto di tutto il movimento mondiale, di leggere oggi la newsletter di Mario Calabresi, perché parla di America anche con una storia che intercetta l'Italia, che vabbè è anche molto colorata e bella, ma soprattutto si sei concentrato su alcune morti che non sono finite sui giornali, però sono avvenute lo stesso giorno in cui è stato ucciso George Floyd, che è stato, come dire, ricordato e ha dato via a una serie di manifestazioni in tutto il mondo. In America succede anche che si può morire davvero nel silenzio. È una storia che ho trovato, non è mia, la riracconto, è un lavoro che ha fatto un sito americano che si chiama BuzzFeed, che si è preoccupata di vedere, ma nel giorno in cui è morto George Floyd, che era il 25 maggio, che ha fatto un rumore incredibile nel mondo, quel giorno lì che cosa era successo? E quel giorno lì ci sono altri 5 americani, bianchi, neri, ispanici, uno originario delle isole del Pacifico, che sono stati uccisi dalla polizia. Qual è la differenza? Che di questi 5 non c'è un video. E quindi nell'era dell'immagine, se tu hai un video, questa cosa qui fa il giro del mondo, diventa virale. Se non c'è un video, vieni dimenticato. E quindi più o meno ci sono 1000 persone che vengono uccise dalla polizia. Poi potremmo aprire tutto un lungo discorso, dibattito, perché la polizia reagisce così. Oggi sotto accusa sono un uso sproporzionato della forza, un razzismo, però i 5 morti ci dicono che muoiono anche bianchi, ispanici, non solo neri. Però sono 1000 l'anno, e di questi 1000 l'anno noi ne veniamo a conoscere 4, 5 ogni anno, quelli dove qualcuno ha acceso il telefono e ha fatto una ripresa. E quindi io ho riraccontato questa storia, che questo lavoro, ci ha messo un mese BuzzFeed a fare questo lavoro, perché è dovuto andare a recuperare in tutta America e vedere dove sono stati questo tipo di incidenti, e quello ha che riraccontato ha colpito le storie di queste persone. Quello che ha colpito è che un'alta percentuale di persone che vengono uccise dalla polizia sono persone con problemi mentali. Sì, e quindi evidentemente nel momento dell'arresto, nel momento in cui fronteggiano la polizia, o hanno dei comportamenti strani, alcuni addirittura invece che vogliono proprio provocare la propria morte, cioè una forma di suicidio indotto. Questo è esatto, c'è un siccome è così automatico che se tu hai una pistola in mano la polizia ti spari dopo averti dato un primo avvertimento. Ci sono persone che vogliono suicidarsi. L'ultimo di quella giornata, di quel 25 maggio, è una persona che ha preso una pistola giocattolo al supermercato, è andata davanti alla polizia con la pistola giocattolo, il poliziotto gli ha detto metta giù la pistola, lui l'ha tenuta in mano e il poliziotto l'ha ammazzato, e questo qua aveva detto che sarebbe suicidato, e quindi si è suicidato andando di fronte al poliziotto con una pistola giocattolo. E noi spesso critichiamo le forze dell'ordine europee, italiane, ma questo automatismo in Europa non esiste. L'automatismo che se tu hai due di quelli uccisi quel giorno avevano un coltello in mano, e se uno ha un coltello in Italia si cerca di disarmarlo, non gli si spara immediatamente addosso, oltretutto sì, in America sono chiari, colpi. Metta giù il coltello una due volte e poi partono. Pensa che la prima storia che racconto di quella notte del 25 è un veterano dei Marines che ha combattuto in Afghanistan e in Iraq, rimasto sconvolto, che ogni anno nei giorni prima del Memorial Day, che è il giorno dedicato appunto alla memoria di tutti i caduti delle guerre, andava in paranoia perché pensava a tutti i commilitoni che aveva perso con lui in battaglia sia in Iraq che in Afghanistan. Quella sera mette a letto le bambine e dice alla moglie: io non ce la faccio più, io mi tolgo la vita perché non ce la faccio più, e esce con la pistola. La moglie chiama la polizia dicendo: aiutatemi a convincere mio marito a non suicidarsi. E poi la moglie sveglia le bambine che avevano appena messo a letto, sale sulla macchina a cercare il marito. Quando lo raggiunge è già arrivata una macchina della polizia e lei dice: è lui, metti giù la pistola, lascia stare, stai tranquillo. Il poliziotto gli dice: metti giù la pistola. Lui non l'abbassa e i due poliziotti davanti alla moglie e alle figlie lo crivellano di colpi. Ma gliene hanno sparati un X numero. Allora ti rendi conto però che lì c'è proprio un problema di fondo. Il problema di fondo base è che ci sono un paese con 330 milioni di armi automatiche e quindi questo rende tutto infinitamente più complicato, difficile e aumenta la violenza che c'è negli Stati Uniti. Non toccare questo principio che poi si arrabbiano, sai, la libertà è scritto nella Costituzione, l'emendamento, vabbè, è così. Comunque lo potete trovare su mariocalabresi.it o .com. Caro Mario, un grande abbraccio, ci troviamo presto. A venerdì prossimo. Eccolo là, già subito ciao, messo in chiaro, a venerdì prossimo. Ciao, sì, ormai facciamo senza caffè, per cui mi autoinvito. Sì, sì, questo è così. Ciao, un grande abbraccio. Ciao, buona giornata a tutti. Uno, nessuno, 100 Milan. Non rischiamo la palude, rischiano la carrega. Per quello che non si va a votare, tanto quelli che volevano aprire la scatola di tonno che quelli che c'erano già dentro si sono uniti, fanno le sardine e i tonni assieme. La quale palude? La palude ce l'hai tu nel cervello. Questo governo va avanti, non ce ne sono di alternative, hai capito? Manera, io ho acquistato un biglietto per Numana, ma visto che ormai hai dimenticato tutto... Voglio il voucher, voglio un voucher al posto del biglietto. Sabato prossimo, ricordiamo, a Numana c'è Leonardo Manera che sta spacchettando dal Tibet. Cosa sta facendo? È il mio sta hobby. Sta riciclando. No, sì, è il mio hobby, sto piegando le bottiglie di plastica, ricordi che è il mio hobby. Bene. Ma sai cosa è successo con la memoria? È incredibile, guarda, i meccanismi... È tornata. No, e dunque io 2 giorni fa ho ricominciato a ripetere e avevo un buio, un vuoto assoluto, proprio non ricordavo nulla. Ieri, come per magia, le parole sono tornate da sole, sono ricominciate a fluire, ma senza che io le abbia ricercate. Quindi vuol dire che ci sono veramente dei cassetti della memoria dove a un certo punto... Il problema è sabato prossimo, cosa succederà? E questo non lo possiamo sapere. Una volta che uno riapre quel cassetto e non lo richiude, il problema sono le cose nuove, quello sì, dovrò leggerle. Ma come hai fatto? Come si fa da riaprire quel cassetto della memoria? Non lo so, probabilmente è solo un meccanismo mentale perché dici devo ricordarmi quello e il giorno dopo ricominciano poi a tornarti quelle parole che pensavi di aver dimenticato per sempre, insomma. Quindi, vabbè. A me è successo così, okay. Quindi a Numana dovrei riuscire a farlo il mio dovresti, spettacolo bravo, senza... Usa il condizionale e il condizionale, prete permettendo. Perché sei in piazza del Santuario, ricordiamo. Sì, l'anno scorso il prete si era lamentato del rumore durante le prove e mi aveva fatto smettere. Adesso spero che non mi faccia durante le prove, stasera. Pensa durante lo spettacolo. No, durante lo spettacolo lo accetta, cioè ha messo in conto che alle 21:30 piazza del Santuario sarà occupata da degli strani soggetti che disturberanno la quiete pubblica. Però se tu ti metti a fare le prove anche alle 5 del pomeriggio, alle 6 del pomeriggio... Sì, ma perché io mi dico perché il prete deve celebrare la messa alle 5, alle 6 di pomeriggio? Lo faccio in un momento in cui non faccio le prove io, no? È anche un po', insomma, arrogante. Va bene, insomma. Adesso noi dovremo parlare di un tema con il sindaco di Vicenza, che dovrebbe essere con noi, Francesco Rucco, sindaco di Vicenza, è in linea con noi, buongiorno. No, lo dobbiamo un attimo recuperare, perché? Perché ci ha incuriosito questa questione di multare coloro che sono drogati. È una decisione, è un'ordinanza firmata dal sindaco di Vicenza che non riguarda solamente gli spacciatori ma anche i consumatori, cioè una ordinanza che punisce con 400 euro di multa

Allora, la polizia locale naturalmente collabora con le forze dell'ordine. Noi abbiamo un sistema di videosorveglianza, abbiamo un nucleo speciale, si chiama NOS, che è finalizzato al contrasto del microspaccio, e facciamo ogni giorno operazioni di polizia per sequestrare, denunciamo naturalmente anche gli spacciatori. Nella migliore delle ipotesi, il giorno dopo, la mancanza della certezza della pena porta lo spacciatore ad avere un processo direttissimo, una condanna patteggiata, e poi escono. Cioè, è questo il problema, il sistema non funziona e quindi ci inventiamo piccoli strumenti alternativi per contrastare il fenomeno. Nel nostro piccolo è evidentemente non risolutivo del problema, ma vogliamo essere, insomma, adottare degli accorgimenti che permettano di essere dei deterrenti. Ecco, questo è il tema, sì, vero, sì, il lei stesso dice sono piccoli accorgimenti, insomma molto di più, certo non è che con un'ordinanza ci può sostituire a risolvere un problema che c'è, che c'è nei numeri, tra poco ne parleremo, è terribile. Lo spacciatore che spaccia in Campomarto, in quest'area verde di Vicenza, faccio un esempio per dire, un'area verde ben individuata, videosorvegliata, venisse condannato a una pena definitiva, messo in carcere e non ci esce, quindi non ha più possibilità di delinquere, saremo tutti più tranquilli e il fenomeno diminuisce. Ma siccome tutti vedete cosa succede poi dopo le sentenze, dopo i patteggiamenti, tornano in libertà e ricominciano a delinquere. C'è bisogno di fare qualcosa. Noi sindaco la ringraziamo. Sì, quello sì, quello poi sarebbe come dire, ma non compete a lei, ma sarebbe auspicabile dal suo punto di vista. Io ringrazio il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Andiamo al traffico, poi alle 10 non abbandoniamo questo tema, alle 10 daremo anche qualche dato a cui faceva riferimento il sindaco, al fatto che l'emergenza droga c'è, anche se non ne parlano con la stessa abbondanza con cui si parla di possibile crisi di governo in giornale. Andiamo al traffico e rientriamo. Uno, nessuno, 100 Milan. Ciao Giovanni da Numana, uno dei pochi residenti. Non vediamo l'ora di averti nella nostra splendida riviera. Ciao! Ecco, questo a Numana. Invece c'è una mail di uno che dice che farei uno spettacolo a Bologna. È vero, ce sì, l'avevi detto, luglio. Forse non ricordi. No, 30 luglio ricordi. Al Parco Fico. Benissimo. Di Bologna. Benissimo. Tutto ecco, non aveva, non aveva ho vinto siccome la Coppa come migliore memoria dell'anno. Siccome non trovava dettagli, appunto, questo ascoltatore, puoi darglieli precisamente. Bologna, dove compra i biglietti? Parco Fico, quando? Il 30 luglio. 30 luglio, dov'è che prende i biglietti? Dice, vabbè, adesso tutto proprio non puoi sapere. Ma secondo me non ci sono neanche biglietti, credo che l'ingresso sia gratuito se entri gratis, al parco. Gratis. Gratis. Sì, io ma Nero ormai gratis. Lavora gratis. Gratis. Solo gratis. No, io spero che qualcuno prego. Mi paghi poi lì al Parco Fico. No, è tutto. Non è che io vado, scusa, gratis a Bologna, vai dagli organizzatori e ti dicono, scusa, è tutto, e i soldi? È gratis. Oggi qua al Parco Fico si entra gratis, tutto gratis. Ti daranno una pianina, no. Dai. Pierina. Sai che secondo me, visto che stiamo perdendo tempo, forse potrei evitare il pezzo di oggi, no. Che lo tengo per lunedì. Allora direi che prego, Leo, prego. Allora, ormai siamo a luglio 2020, è passato già mezzo anno, l'anno del coronavirus, e dall'inizio dell'anno sono successe tante cose. All'inizio pensavamo che riguardasse solo la Cina, ma la Cina per noi è lontana, per noi i cinesi sono strani, per noi i cinesi mangiano solo cose strane, cani, insetti, pipistrelli, pangolini. Cose strane e fritte. Per noi, se un cinese non frigge, non è un vero cinese. Come i veneti, se un veneto è astemio, pensiamo che non sia un vero veneto. Luoghi comuni. Ma è iniziato tutto da là, dalla Cina, e pensavamo che fosse troppo lontana la Cina per arrivare fin qui, il virus. Poi il virus, che probabilmente circolava già da un po', è arrivato a Codogno. E la domanda che tutti ci siamo fatti non è stata quanto è pericoloso il coronavirus, la domanda è stata ma dov'è Codogno? Perché in fondo anche Codogno ci sembrava lontano, forse più dalla Cina. Poi di colpo sono successe alcune cose molto significative che ci hanno fatto capire che la situazione era grave. Barbara D'Urso in televisione ci ha fatto vedere come si lavavano le mani. E allora tutti noi abbiamo pensato, se Barbara D'Urso rinuncia per qualche minuto a parlare di gossip per insegnarci a lavare bene le mani, vuol dire che la situazione è grave. Intanto le mascherine sparivano e noi italiani, che non sapevamo ancora se servivano o no, non l'abbiamo capito bene neanche adesso, noi italiani abbiamo imparato a farci le mascherine anche da soli, col tessuto, con la carta stagnola, con la carta da forno, e dopo tanta fatica per fare le mascherine poi le abbiamo tenute spesso sulla fronte o sul collo. Poi è arrivato il lockdown, che tradotto in italiano significa pizza fatta in casa, perché tutti durante il lockdown almeno una volta abbiamo provato a fare la pizza fatta in casa e poi abbiamo cantato anche sui balconi, che è stata la rivincita degli stonati. Perché se prima eri stonato e cantavi in casa a squarciagola, i vicini di casa si lamentavano. Invece durante il lockdown dicevano: bravi, siete dei patrioti, anche se cantavano gelato al cioccolato, dolce, un po' salato, ma lo abbiamo fatto tutti. Si usciva solo per correre di nascosto prima che qualche drone ci inseguisse, oppure si usciva per portare il cane a fare i bisogni, e per portare il cane più volte a fare i bisogni, invece di dargli le solite crocchette, gli si davano le prugne e i cani in casa andavano di nascosto a cercare l'imodium perché non ne potevano più. Oppure si usciva per fare la spesa, stando rigorosamente a un metro di distanza uno dall'altro, cercando di capire chi, tra quello davanti e quello dietro, fosse il più sano, quello che non poteva trasmettere il virus. Io guardavo dietro alle orecchie delle persone, perché quando ero piccolo, mia madre mi diceva che quelli veramente puliti sono quelli che si lavano dietro le orecchie. E io guardavo lì, dietro alle orecchie degli altri, e gli altri chiamavano i carabinieri, dicevano: c'è un maniaco che mi guarda dietro le orecchie. E intanto ci siamo abituati al silenzio delle città, al distanziamento sociale, allo smart working, e soprattutto, per chi è sposato, a ritrovare l'intimità col coniuge. Ecco, tra tutte le novità forse questa è stata la più significativa. Abbiamo di nuovo ritrovato l'amore, che forse dopo anni di convivenza era finito, oppure se non abbiamo ritrovato l'amore almeno abbiamo trovato un buon avvocato. Resta in questi mesi, di questi mesi, il ricordo di chi non c'è più, un abbraccio per i loro parenti e un po' più di paura, ma anche un po' più di forza, perché il coronavirus ci ha insegnato, ci sta insegnando, che si può uscire anche dalle situazioni più complicate, e l'importante sempre è ricominciare a vivere. Finalmente un pezzo di ampio respiro e non pessimista e nemmeno amaro, vedi? Neanche un goccio di amarezza. Tu non sei amaro. Io non sono né pessimista né amaro, sono gli altri che mi dipingono così. Io sono aperto verso l'orizzonte infinito dell'ottimismo. Ottimista. Chi mi contraddistingue? Sapete cosa voleva fare? Cosa vorrebbe fare Leonardo Manera? Fare dei pezzi, ma mettere la base musicale sotto, talmente alta per cui non si percepiscono nemmeno le sue parole. Così può farlo tipo, ecco, così, prego Alpino. Allora, cari ascoltatori, buongiorno, sì. Benvenuti. Lunedì lo facciamo. Lunedì lo così facciamo, riutilizza lo stesso altissimo pezzo anche martedì, mercoledì, giovedì. Ma sì, quindi non lamentatevi, non è l'Alpino che sbaglia in regia. Bisogna un po', come dice, sparigliare le carte. Per esempio, Leonardo, dai, annuncia al giornale radio che non ascolteremo perché la base è talmente alta. Vai, Leonardo, prego, a te. Giornale radio. Giornale radio. Amici ascoltatori, allegri. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma qual è il problema di differenziare le droghe? Qual è il problema? È come se mi si dicesse che la birra è pericolosa quanto il whisky, quindi una bottiglia di birra fa male quanto una bottiglia di whisky, ma anche un bambino sa che non è così. E invece in Italia pare che i bambini non possano governare perché è troppo complicato ragionare e avere buon senso. Ma se in tutto il resto d'Europa è stata depenalizzata, ma per quale motivo in Italia non si riesce a fare qualcosa di sensato mai? Sì, Manera, lo spettacolo che deve fare a Udine a metà luglio, dimenticato? A Udine, ragazzi, ma è pieno di spettacoli, io spero che siano tutti gratuiti, perché stai a Udine. Non mi risulta uno spettacolo a Udine a metà. Attenzione, sfida Lucchetti. Miriam Lucchetti, fai così, vai su leonardomanera.it, lì ci sarà tutte le informazioni del caso. No, non c'è niente, devo aggiornarlo. Niente, non c'è neanche Bologna, non c'è neanche Numana, niente. No, nulla, è un sito nulla inutile. A Udine, cosa devi fare? Miriam, questo no, non mi risulta è proprio che da devo quasi andare Sherlock a fare Holmes. Spettacolo a metà luglio a Udine. L'ha detto per dire, secondo me, l'ascoltatore. Ha fatto una butade. È un ascoltatore a cui piace fare delle butade, secondo me. Si sente anche dal tono di voce. Non lo so. È conosciuto come il re delle butade. Sì. Magari era uno spettacolo dell'anno scorso, perché uno prende uno spettacolo. L'anno scorso hai fatto uno spettacolo a Udine a metà luglio. Magari uno legge 2019, 10 luglio. No, sono stato a Udine a ottobre dell'anno scorso, al Teatro Giovanni da Udine, che è un bellissimo teatro, tra l'altro. Come fai a ricordartelo? Ma io guarda che ho vinto la Coppa per la miglior memoria, io sono un mondo. Guarda, devo sempre essere preso in giro quando dico delle grandi verità. Questo dispiace anche umanamente, devo dire. Umanamente mi dispiace essere così denigrato. Ma se non ci fosse Manera, noi come faremmo senza Leonardo Manera? Ditelo, cari ascoltatori, visto che non vuole più tornare a settembre. Come faremmo noi senza Leonardo Manera? Potete iniziare a mandare dei messaggi. Voi cosa fareste senza Leonardo Manera? Al 349-238-6666, messaggi in audio soprattutto, visto che non vuole tornare, visto che ci vuole abbandonare, questo ormai è chiaro, perché svicola il discorso tutte le volte. Dite che cosa faremmo noi e cosa fareste voi senza Leonardo Manera. Questa trasmissione è finita. L'audio mi vuole far perdere la trasmissione. Vediamo se Peter è già abbastanza perspicace da capire quale Manera, fantastico. Ecco, questo. Non era questo, era il ma chi era se ne frega 3-3. Senza Manera. Io pensavo chi 3-3, se ne frega. No. Va bene. Allora, torniamo a bomba, come si suol dire, a parlare del tema che abbiamo iniziato ad affrontare con il sindaco di Vicenza, con una vicenda, se volete, dell'ordinanza, 400 euro di multa a chi si droga. Ne discutiamo con una persona che di questi temi ha fatto una ragione anche di vita professionale. Si tratta di Simone Feder, che è educatore, psicologo alla Casa del Giovane di Pavia. Buongiorno Feder, ben ritrovato, eccoci qui. Buongiorno a voi. Poi parleremo anche di un suo libro edito da Mondadori, perché ha raccontato una storia molto, molto intensa. Il titolo è Alice e le regole del bosco. Molto evocativo come titolo, anche se il bosco a cui si fa riferimento purtroppo non è un qualcosa di così fiabesco. Simone Federer, intanto, forse non ha sentito, ma cosa ne pensa di questo dibattito, le ordinanze del sindaco che per sua stessa missione dice non è che risolviamo il problema così, però qualcosa dobbiamo fare, no? Per colpire magari anche il professionista che si droga, e allora quello i 400 euro li ha. Allora, è chiaro che tutto questo ti porta a ragionare sul tema che forse i riflettori in questi anni si sono un po' abbassati. Chiaro che le leggi e le ordinanze sono sempre deterrenti, che spesso mettono anche un po' a tacere le dicerie delle persone che abitano anche in un territorio. Ma adesso io inventerò Goredo, che ormai 3 anni tutte le settimane presidiamo, sono persone che hanno fogli di via dalla polizia, che ne hanno 20, 25 eppure tornano. È chiaro che il problema va risolto con un'attenzione per non essere colti di sorpresa da anche altri fenomeni, e il tema culturale ed educativo deve essere assolutamente nelle agende dei nostri cari politici, perché qui il problema non è tanto, oggi è obsoleto parlare di droga, il problema è il disagio, questo malessere che non ha confini. Io vedo anche ragazzini, e pensi che in Casa del Giovane abbiamo una struttura piena di ragazzi sotto i 18 anni, l'ultimo che mi è questo, entrato. Questo è il grande tema, adesso ne parliamo. Io do 2 dati, osservatorio del Viminale sull'ultima relazione annuale droga, più 11% di morti per overdose nel 2019 rispetto al 2018, 373 morti. I minorenni, per il secondo anno consecutivo il Viminale, il Ministero dell'Interno fa sapere, ormai continua il trend della droga tra i minorenni, si abbassa sempre più l'età. Pasticche sintetiche certamente, ma anche eroina, cocaina, ecco, ci diceva l'ultimo che è entrato in un colloquio, che anche fatichi a fare un colloquio poi con dei ragazzini, che dovresti parlare di figurine di Albu Panini o altro, no? 15 anni e mezzo, chiedo che cosa stai utilizzando, qual è il problema principale per te, usa solo cocaina. Questo è un termometro che spaventa, anche perché, come addetti ai lavori, ti devi interrogare sempre di più, che e progetto educativo che portare avanti con lui e con anche il contesto che chiamiamo famiglia che ha avuto. E teniamo presente che da sfondo non abbiamo delle famiglie disadattate, abbiamo delle famiglie che non riescono più a reggere l'urto. Questo è il punto fondamentale. Uno pensa che questi siano tutti ragazzi che provengono da, non so, famiglie che li hanno abbandonati, famiglie. E questo me devo dire da padre spaventa. Tra l'altro io ho anche la sensazione, che in generale nei media si parli meno di prevenzione alla droga. Cioè magari si punta ancora sulla repressione o soprattutto sulla repressione, ma ci sono meno informazioni anche per i ragazzi giovani. Io almeno ho questa impressione sui danni che produce la droga. Ce ne sono zero proprio. Anche questo è chiaro che dobbiamo cominciare a parlarne nelle scuole, perché anche questi giovani non hanno conosciuto i disastri che ha causato un po' l'eroina negli anni Ottanta. Sono stati un po' all'oscuro di tutto questo. Lei pensa che a Rogoredo i ragazzini e i genitori che mi chiedono di andare a prendere i ragazzini... sono situazioni davvero aberranti, perché spesso senti dire ma è figo andare in questi posti, in questi non posti oserei chiamarli, spesso c'è anche un tantan giovanile che spinge sempre di più ad andare ad una conoscenza di questi. A Rogoredo chi ci va, ma così come anche altri posti, oggi la droga soprattutto, c'è anche una normalizzazione di questo consumo che sta passando, relativizziamo un po' tutto. Il problema è che poi il salto è velocissimo. Noi abbiamo, e questo è il termometro che dicevo prima, ragazzi che utilizzano sin da subito cocaina. O spagnolo di eroina. Non c'è allora, più facciamo così. Facciamo così, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi con Simone Feder approfondiamo, ha parlato più volte di questo bosco di Rogoredo che è considerata la più grande piazza di spaccio d'Italia, alle periferie sud di Milano, è diventata tristemente celebre, ma ce ne sono tanti di luoghi così in Italia, per cercare di capire un po' anche attraverso gli occhi di Alice, raccontata nel libro, è una storia vera, chi sono questi nostri figli che si drogano, tra poco. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Allora, siamo qui con Simone Feder che ha scritto questo libro. Devo dire, Simone, il libro Alice, le regole del bosco, edito da Mondadori, già la copertina un po' trae in inganno, o fa capire, perché in copertina c'è questa, devo dire, bellissima ragazza, adolescente, certo un po' coperto il volto dalla nuvola di fumo, degli occhi azzurri intensi, pettinatura caschetto, cioè forse già dalla copertina far capire che sono i nostri figli, ragazzi normali, ragazzi che dicono vado a scuola, esco il sabato per andare a fare un giro con gli amici e poi trovano figo andare nella piazza di spaccio e provare subito la cocaina. Ma una famiglia come fa? Cioè dov'è che intercetta? Perché abbiamo detto che non sempre sono famiglie che se ne sbattono dell'educazione dei figli. Questo inquieta molte famiglie che dicono ma allora io dove intercetto questo disagio, questo problema? Innanzitutto i genitori devono cominciare davvero a non vivere questo, parlare di droga come un tabù, perché altrimenti i nostri giovani nel mondo virtuale che rompe tutti i confini, che permette di andare ovunque, acquisiscono lì le informazioni. Ricordo un giovane, quando lavoravo come giudice onorario al Tribunale per i minorenni di Milano, in un'audizione mi ha detto che la cosa che lo affascinava, e anche questo è da tener conto nel mondo giovanile di oggi, perché il rituale è fondamentale per loro, perché davvero li galvanizza e li fa tornare ad usare, più che tanto l'uso. E questo giovane mi dice, vorrei davvero sintetizzare un prodotto che era il farmaco da banco che usava la nonna per l'utite, che aveva dentro della codeina, per cui i ragazzi in internet cercavano di ingegnarsi su come sintetizzare per estrapolare e rendere polvere quella sostanza da smerciare agli altri. Oggi abbiamo un fascino che viene colto, ma soprattutto un'informazione la referiscono lì in internet. Allora oggi i campanelli d'allarme che ci sono all'interno delle famiglie non possiamo sicuramente ignorarli. Oggi non è più tempo di lasciar correre, questo che dico ai genitori. I vostri figli cercate anche il dialogo, la presenza, perché non è più tempo, l'importante è la qualità del tempo, no? Anche la quantità oggi del tempo. Va bene, però allora uno potrebbe dire che se uno sta lì, c'è dialoga, non succede. In realtà capiamo non è così. Che ci sono capiamo sì, che in realtà non è così, anche perché poi c'è tutto un mondo purtroppo di relazioni amicali, ecco perché ci ha spinto un po' ad entrare anche in questi posti nel mondo giovanile, perché oggi anche noi delle comunità dobbiamo uscire dai nostri posti e dai nostri setting e cercare di andare incontro a questo disagio che è molto anche sfacciato e repentino. Noi abbiamo dei ragazzini davvero a 13-14 anni che in un attimo da giocare a calcio passano a utilizzare stagnole di eroina. Questo è quello che è successo poi anche ad Alice, ma a tanti altri ragazzi che ho incontrato in questi, chiamiamoli sempre, non posti. Sì. Io ho una domanda. Io ho un figlio di 11 anni. Può essere utile cominciare a parlare con i figli di queste cose già quando hanno quell'età e magari per loro sono ancora cose, diciamo, non presenti, anche se all'orizzonte cominciano già in qualche modo a delinearsi? Può essere utile cominciare a parlarne già prima in modo da prepararli in qualche modo? O è troppo presto? No, sicuramente è utile. Ricordo mia figlia, anni fa, nella casa da scuola, aveva 12 anni. Papà, che odore ha la marijuana? E lì mi sono partito un sacco di film. L'avrà sentita? Avrà capito o avrà sentito l'odore da qualcuno? Ne parlano a scuola? Oggi indubbiamente i genitori devono cominciare a parlarne nei dovuti modi, ma lo devono fare per forza i genitori. Non deve essere rimandato ad altri, oppure ma sì, tanto cresce e capirà. Bisogna parlarne. Parlarne. Devo dire che nel libro si racconta appunto la storia di Alice, una storia vera, che è una storia anche di recupero, perché Alice, se ho capito bene, ha iniziato a drogarsi a 15 anni. E poi è bello l'idea di dire come si esce da quel bosco di Rogoredo, con una ragione di vita. Ecco, questo devo dire... mi pone un interrogativo. Cioè, Leonardo, tu che ragione di vita avevi a 15 anni? No, perché io penso a me a 15 anni, Simone Federer a 15 anni. Noi avevamo una ragione di vita, un senso di vivere nel mondo compiuto. Ma guarda, a me so, io avevo una compagna di liceo che morì per overdose a 15 anni. La cosa colpì tutti noi così tanto che in qualche modo il tema della droga per tutti noi divenne, insomma, una cosa assolutamente da evitare, perché poi certamente la ragione di vita secondo me bisogna coltivare, almeno io parlo per me. Io avevo due passioni allora, era giocare a calcio e fare spettacoli, e quindi ho cercato di concentrarmi su quello. Col calcio è andata male, con gli spettacoli meglio, però secondo me l'importante per un ragazzo è comunque avere delle cose da perseguire, che può essere retorico, ma nel mio caso è stato così. Simone, vede, io ho incontrato dei genitori che arrivavano da Genova e hanno portato il loro figlio a 17 anni, e il problema era l'utilizzo delle sostanze, il fatto che ormai non reggono più anche nessuna regola all'interno delle famiglie, quindi non c'è orario di rientro, non c'è nulla, non ascoltano più. Chiedo a lui, oltre all'utilizzo di sostanze, che fai? Il problema è che non trovi nulla, non c'è nessun interesse dietro, c'è un appiattimento totale. Ecco perché anche secondo me oggi dobbiamo presidiare anche tutto il mondo della rete, ma anche tutto il mondo di dove vanno questi giovani, perché è importante anche far passare loro quanto sia necessario avere degli interessi. Alice ha cominciato, lei è molto brava a disegnare, gli ha chiesto di farmi dei disegni, ecco, aiutarli a riprendere determinate situazioni di loro interesse che avevano sin da piccolini, perché altrimenti tirano giù la saracinesca e se la spengono con le sostanze, staccano completamente dal mondo. La sofferenza anche che incontriamo nelle scuole, dalle indagini che ricaviamo da dati di questionari, c'è sempre più un trend di crescita di ragazzi, adolescenti, che commettono atti autolesivi. E tutto questo è un bisogno sicuramente di sentire questo disagio che hanno dentro e di esprimerlo. Oggi dobbiamo per forza raccogliere, ma dobbiamo fare in fretta, perché quel giovane che oggi parli rischi che domani non c'è più. Io ho visto parecchie situazioni davvero cambiare e nel positivo, nel momento in cui tu agisci, cominci a prestargli tempo, a dargli dell'interesse, a sentirlo un po' che è importante. Spesso i genitori in questi momenti, quando si arriva alla frutta, devono un po' mettersi da parte e lasciare ad altri l'intervento. Allora lì abbiamo dei bravi specialisti all'interno dei servizi per le dipendenze oggi che sono preparati, però bisogna anche alzare il telefono o prendere e portare i figli lì. Questo è l'altro dato che mi preoccupa. Noi abbiamo ragazzi che quando dico ai genitori portatemelo, a 14 anni non riescono a portartelo, e lì hai già perso quasi tuo figlio. Cioè i genitori non riescono a portarlo perché, no. perché c'è quell'idea di perderlo. Ma anche perché il ragazzo in un momento non vuole venire. Ah, ecco. E quindi i genitori sono succubi, cioè non riescono a imporre come dire, la propria volontà rispetto a Alino. Lei quando aveva 14-15 anni, suo padre diceva: vieni, andiamo a parlare con una persona, sicuramente andava, no? Oggi i tempi sono cambiati anche questo. La ribellione, la dominanza all'interno di un sistema chiamato famiglia è determinata dal ragazzino. Poi c'è anche un altro problema, secondo me. Sono diventati un po' i padroni. Ma se un genitore comunque è presente, cerca di parlare col figlio, cerca di essere, diciamo, il miglior genitore possibile, ma nonostante questo poi il figlio comincia a drogarsi, cosa deve fare il genitore? La deve vivere come una sconfitta assoluta, perché le ha provate tutte eppure non ce l'ha fatta. Cosa si fa a quel punto? Allora, su questo devo dire che il bene che hai messo in giro ai figli presto o tardi torna. Io lo sento, te lo raccontano anche loro. C'è a volte delle sbandate che quel giovane può prendere, perché anche oggi i contesti amicali sono molto... tra virgolette, non hanno la profondità del rapporto. Difficilmente un giovane si sente dire dal loro compagno: come stai? No? Nel momento che tu coltivi e porti avanti con le fatiche che sappiamo tutti, perché tutti quanti facciamo fatica, cioè chi ha compiti magari dirigenziali oggi rischia anche di perdere il lavoro, c'è cioè la ristrutturazione aziendale, per cui l'ultimo dei pensieri è di pensare al figlio, no? Ma voglio dire, se tu hai coltivato questo rapporto di condivisione proprio di anche con il giusto ruolo, che spesso a volte anche molti genitori lo perdono, anche questo è determinante nella vulnerabilità al disagio. Però lei dice torna, cioè se uno ha seminato torna, qualcosa torna prima sì, o poi. Torna. Sì, anche perché io aggiungo, a volte, mi aggancio a quello che dice Leonardo, certo che la sensazione di dire mi sento un fallito come genitore se penso di aver dato tutto eppure il figlio cade in quella nella droga, però c'è anche da dire, dobbiamo anche pensare che i figli siano persone diverse da noi, che hanno dei loro percorsi, e noi cerchiamo di dare dei valori, ma hanno anche una loro autonoma scelta, una certa età, un libero arbitrio di decidere cosa fare. Oppure ti prepara il giovane a quel recupero che c'è. Alice ne è la testimonianza, ma così come Samuele, che è il ragazzo che descrivo, oggi stanno bene, ma hanno permesso sicuramente di rispolverare anche quell'asse valoriale che in famiglia un po' si era seminato, ed è questo che ti permette di capire a volte anche i genitori che non ce la fanno più, però se hai seminato prima dobbiamo preoccuparci di seminare prima, e l'appello allora va in un discorso preventivo a monte, ecco perché il tema è culturale ed educativo e non eccessivo. Simone Feder, grazie per essere stato con noi. Leggete, se vi va, per Mondadori, è un'ottima lettura che io mi permetto di consigliare, Alice e le regole del bosco, è una storia vera di una ragazza che Simone Feder ha avuto l'opportunità di incontrare alla casa del giovane di Pavia, dove lavora, dove è operatore. È una ragazza col suo percorso di caduta ma anche di risalita. Allora, andiamo a sentire informazioni dalla borsa. Segnalo, è vero, oggi Miriam Lucchetti non è con noi, ma la sfida, a questo punto sfida Fusconi o sfida Nespoli, vinta, nel senso che la pagina di Manera, leonardomanera.it, è ferma al 20 febbraio, pre-lockdown, cioè è andata in lockdown prima del lockdown di tutta Italia, è in pre-lockdown, non ha neppure la sezione news, quindi se cercate su Leonardo Manera dove andrà a fare gli spettacoli, sezione news non esiste, non si sa nulla di questo spettacolo millantato dal re delle butade, un nostro ascoltatore a Udine, a metà luglio, fai una chiamata al tuo agente, Leonardo. No, ma non c'è, ha fatto una buttata. Non c'è. Farà un buco clamoroso, non si presenterà. Cari amici di Udine, non verrà. Andiamo alla borsa. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading. Vi presento. 1, nessuno, 100 Milan. Secondo me Manera non è facile da sostituire, io lo terrei a metà stipendio però. Se l'anno prossimo non c'è Manera, io inizio a non pagare le spese condominiali, adesso chiamo subito l'amministratore, niente Manera, io non pago più le spese. Ma senza Manera vivrei le mie giornate con positività, con questa gioia spicciola, senza angoscia, prive di amarezza, veramente inutili. Manera, meraviglioso, perché tante volte sono lì che penso agli affari miei e qualche volta posso essere triste e mi viene da ridere da sola, che se mi dovessero mai vedere dicono questa qui è da rinchiuderla, perché non si può ridere così. Grazie. Grazie, devo dire, da un rapido sondaggio, signora, i nostri ascoltatori vivrebbero serenamente, tranquillamente, senza angoscia alcuna, anzi forse anche meglio, direi, se Manera dovesse lasciarci allora a settembre. Quindi avviso Alessandra Scaglioni, Peter, nessun problema. Proposito, chiamiamo Pucci, chiamate Pucci. No, dai, Pucci costa molto di più, Pucci costa molto di più, non ve lo potete permettere. Non importa, io sono economico. Non badiamo a spese, puntiamo alla Champions League. Vai, no, chiama Pucci. Pucci costa troppo, Pucci costa 10 volte meno, non ve lo potete permettere. Chiamate Ornano, dai, chiama Ornano. Costa di più Ornano. Non come Pucci, ma costa di più anche Ornano. Alvaro Poi Vitali, fammi il numero di Alvaro Vitali, dai, chiama Alvaro Vitali che da settembre... Voi mi tenete perché sono economico, questa è la verità, costo poco, sono comunque produttivo, sono un riempitivo e quindi va bene, mi tenete per quello. Che tristezza, riempitivo, che tristezza. Manera il riempitivo. Infatti, faccio notare questa cosa agli ascoltatori, sì. Io mi collego ogni mattina con l'app, no? da casa, ma proprio perché sono riempitivo, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, non mi comunicano neanche i cognomi, sale. Sì. No, non mi comunicano mai il codice per l'app, perché dicono, ma sì, chi se ne frega, sono sempre io che ogni mattina, poco prima delle 9:30, devo chiedere, per favore, mi dite il codice per collegarmi, e dopo un anno che mi collego con l'app non c'è neanche, come dire, l'attenzione, la gentilezza, semplicemente, di dire, ma sì, glielo mandiamo. No, io sono il riempitivo e allora ogni mattina devo chiedere io il codice per potermi collegare con l'app. Questa purtroppo è l'amara realtà. Ma chi se ne frega! Cioè, dici che se tu non lo chiedessi noi ci accorgeremmo della tua assenza tipo alle 10:15. Dici, ma Manera? Esatto, sì, esatto, è così. Che mestizia, bisogna farsi ragazzi. Una ragione. Non è vero. Mi viene non è vero. Angoscia metropolitana. Vero. Dico a Peter di preparare la canzone Angoscia metropolitana di Claudio Lolli. Non è vero, non è vero. Salutiamo Marco Giovagnello, va. Salutiamo Marco Giovagnello. Buongiorno, buongiorno Marco, blogger di aviazione che si occupa di aerei, di tutto quello che succede nel mondo dell'aviazione. Abbiamo chiamato Marco Giovagnello perché quando abbiamo scoperto che non si può utilizzare più il bagaglio a mano. Un tempo era bagaglio a mano, parti, vai, tranquillo, scendi. Adesso invece il bagaglio a mano è vietato, la Covid. È giusto? Allora, il problema esiste comunque, ma questa misura è esclusivamente italiana, partorita dal nostro ministro della Sanità, che forse... Vabbè, insomma, forse vuole darsi tanto da fare e far vedere che fa qualcosa. Allora, il problema esiste perché nelle cappelliere degli aerei c'è posto per meno bagagli a mano di quelli dei sedili che ci sono. Quindi se ciascuno porta un bagaglio a mano non c'è posto per tutti. In realtà si poteva risolvere il problema in altro modo, ad esempio EasyJet da sempre. Cosa fa? Fa imbarcare il bagaglio a mano ai primi passeggeri che si presentano e a quelli che hanno appositamente pagato per essere tra quelli che possono portare bagaglio a mano. Ryanair più o meno fa la stessa cosa, voglio dire, si poteva banalmente dire che per ogni modello di aereo si possono portare X bagagli a mano e la compagnia è tenuta magari, a imbarcare sotto bordo, perché imbarcare sotto bordo vuol dire non dover fare la procedura di check-in e a vedersi restituiti molto più velocemente anche i bagagli. Allora, cosa succede? Che il bagaglio a mano spedito forzatamente tra i bagagli imbarcati crea più pile, più assembramenti ai check-in, più assembramenti ai caroselli di ritiro. Per cui adesso forse questo non è un grandissimo problema perché il traffico è ancora ridotto, ma quando pian piano il traffico aumenterà, avere il 100% dei passeggeri che devono imbarcare un bagaglio invece che il 30%, il 40%, creerà assembramenti e per un tempo molto molto lungo, perché per aspettare i bagagli a mano ci vuole tempo. Questa è la verità. Per cui, prepariamoci alle code, pazienza e code. Questa. E soprattutto... sì, ho visto che l'amministratore delegato di Ryanair ha protestato molto in un'intervista al Corriere. Certo, Ryanair punta molto, come tutte le compagnie low cost, al bagaglio a mano, cioè l'idea prendi, vai, bagaglietto a mano e via. Sì, però il problema vero è che siamo in Europa, ma il nostro ministro della Sanità se lo è dimenticato, ha ordinato a ENAC di vietare i bagagli a mano a meno che non si tenga una certa percentuale di posti vuoti e non si è assolutamente preoccupato di coordinarsi con i suoi colleghi degli altri paesi europei che questa cosa non fanno, per cui è assurdo. Noi adesso abbiamo un aereo KLM che parte da Amsterdam, se va ovunque il problema del bagaglio a mano non esiste, se parte per l'Italia il bagaglio a mano non deve essere messo in cabina. Ma poi la cosa assurda è che se uno poi dovesse fare un volo in connessione dovrebbe avere il bagaglio a mano imbarcato, poi ritirarlo. Voglio dire, francamente sì, è una situazione poco elegante. Fa bene Leonardo Manera, fa bene Leonardo Manera. Leonardo Manera ha il terrore degli aerei, non li prende, li prendo quando è necessario per ricordo lavoro, che l'anno scorso hai fatto saltare un contratto a Catania per non prendere gli aerei. Sì, ma non era questa cosa. Sì, ma non era un volo aereo, era tutta la stagione da novembre ad aprile, un volo alla settimana di andata e ritorno, praticamente per me. Quindi due voli a settimana. Un incubo. Ha fatto saltare un contratto milionario, peraltro, milionario. Pur di non, pur di poi non ci fare credo questo. Che non gli danno codice dell'app. Bravo Marco Giovagnello. Guarda che io con questa mia preoccupazione per gli aerei sono in buona compagnia nel mondo dello spettacolo, anche ad altissimi livelli. Per esempio credo che ci sia Fiorello e un altro che non ama molto prendere gli aerei. Nuova Zelanda difficilmente può andare, insomma. Sì. ci sono, cioè, c'è questo collegame, dici Leonardo, tra il mondo dello spettacolo e la alta concentrazione di persone che hanno paura dell'aereo. Ma dai. Poi lo prendiamo l'aereo, quando lo dobbiamo prendere lo prendiamo, però non è una cosa che sempre si ama. Ricordo che una sera lo fate per amore, lo fate per dovere, insomma. Sì, esatto. Per denaro, esatto, più che altro. Ma dicevo, una volta avevo uno spettacolo da fare a Diamante, in Calabria. Il meteo preannunciava vento forte, turbolenze, brutto tempo. Allora io ho preso la macchina la mattina, sono partito da Milano insieme a Teresa Mannino, anche lei non ama volare, e abbiamo fatto tutto il viaggio Milano-Diamante, non so se vi rendete conto, macchina, per non prendere l'aereo. Chissà, Marco Giovannello, la serata, di quanto è aumentata il loro rischio di incidente la serata? È abbastanza. È saltata perché pioveva, quindi non l'abbiamo fatta. Perché arrivati a Diamante c'era brutto tempo, quindi abbiamo fatto tutto il viaggio. Però hai fatto un bel viaggio con Teresa Mannino, vuoi mettere? Una bella soddisfazione, naturalmente. No, Marco Giovagnello, noi ci dobbiamo fermare, però preparatevi, cari italiani che dovete viaggiare, e se adesso in estate qualcuno l'aereo lo prenderà, io per esempio tornerò a prenderlo, ci saranno code se non cambiano queste regole, bagagli a mano vietato. Ringraziamo Marco Giovagnello, andiamo al traffico, dai che così ce la facciamo con grande agio ad avere l'ospite che sta entrando a casa Manera. 1, nessuno, 100 Milan. Senza Manera stappo il brick di Tavernello Riserva. Milan Manera fa questo perché vuole staccare un contratto molto più oneroso, lo sai, lui è molto pignano in queste cose. Leonardo, don't leave! Chiara da Londra. No, grande Chiara da Londra, ma è ovvio, sì, si sa, è uno proprio... Don't leave, non lasciare, non andartene. Sì, sì, sì. Ci sta usando come trampolino di lancio. Io sono l'uomo trampolino di Leonardo Manera. Vuole staccare un contratto più oneroso. Sì, sì, sì. Sì, ma sotto venale, c'è una piscina vuota. Venale, venale, venale. È l'uomo trampolino di una piscina vuota. Sono un uomo trampolino. Mentre, signori, fatti da parte comunque Leonardo, adesso è arrivata la nostra mitica sardina, il nostro mitico Elenio Mariotti, che saluto con grande piacere, è tornato con noi. Buongiorno, signore Elenio. L'educazione già si diffonde nello studio. Eccoci qua. Saluto anch'io, buongiorno. Educatamente, buongiorno gli ascoltatori di Radio 24, con educazione e pacatezza, anche oggi, che bene, è la cifra bene, che ci contraddistingue, la pacatezza. Sono pacato, sì, e educato. L'abbiamo capito, ma questo noi l'apprezziamo. Devo dire che ultimamente però c'è stata qualche polemica, quindi magari l'educazione l'avete messa da parte, cioè le sardine sono tornate alla ribalta e... Sono tornate alla ribalta, ma sempre con educazione. Lei sa infatti, sì, che la cosa che ci contraddistingue è l'educazione. Per esempio, se qualcuno ci presta la macchina, noi gli restituiamo lavata, ci mettiamo l'arbre magique, facciamo anche 5 euro di benzina. Cioè, naturalmente però, c'è il service per non disturbare il benzinaio. Così intanto, se vediamo qualcuno alla pompa automatica, lo aiutiamo a mettere dentro la banconota, perché non si capisce mai da che lato inserirla, ogni volta che la metti dentro te la sputa fuori. Cioè, queste sono cose importanti anche politicamente. Ieri, per esempio, ho aiutato un signore, ma lui mi voleva picchiare, pensava che gli stessi rubando i soldi alla pompa della benzina. Questo devo dire che non è mica tanto educato. Invece noi, sempre educati anche quando andiamo in piazza. Abbiamo dovuto espellere dei membri del movimento perché loro venivano in piazza solo per suonare i citofoni e scappare. Allora io dico, va bene, fai pure anche la pernacchia se ti rispondono, ma sempre con educazione. Com'è? Questa come una pernacchia educata, scusi? La pernacchia educata. E si fa la pernacchia e poi si chiede scusa, subito. Anzi, si chiede prima scusa. Scusa. C'è la scusa preventiva. prima scusa, giusto, questa è la pernacchia educata, la ma scusa sì, prima e poi la pernacchia. Non si possono inibire gli istinti, no? Cioè, se tu hai l'istinto di fare una pernacchia, noi diciamo che fa parte dell'uomo, è anche giusto. Cioè, ci faccio un esempio, pronto? Scusi. Poi va bene. E poi si corre via, ma con educazione sempre. Con e educazione, si va via un po', allontanandosi con educazione, neanche proprio correndo, cioè con un passo veloce. che tende alla corsa, ma non è ancora corsa, perché altrimenti una marcia. Vabbè, certo. Sì. Senta, io glielo chiedo tutte le volte, me lo faccia chiedere anche oggi. Se devi fare anche il gesto, se anche devi fare il gesto dell'ombrello, ma prima devi chiedere scusa. Fai, sì, certo. Scusa, e dopo glielo fai, però sempre con educazione, hai capito? Sì, ok. Glielo chiedo tutte le volte, sembra che io sia strano, il problema è che una risposta non l'ho mai ben capita. Chi sono le sardine? Ma ecco. Chi sono le sardine? Chi sono? Sì, cioè, chi sono? No, sono io che l'ho chiesto lei. Infatti le sto rispondendo con educazione e anche con pacatezza. Cioè, la fretta è nemica della pacatezza. Cioè, sì. Capito? La cosa che accomuna tutte le sardine è che se stiamo con la gamba accavallata per un po', poi ci viene il formicolio. Sì, anche a me che non sono sardine. A parte sardine, questo siamo tutti diversi, cioè c'è qualcuno che ama la carne, qualcuno vegetariano, qualcuno che ama i fritti. Quello che però non dobbiamo mai dimenticare è che in Italia si mangia bene dappertutto e quindi è arrivato il momento di esporci. Dobbiamo dire in cosa crediamo davvero, cioè la gentilezza. Perché bisogna essere chiari fino in fondo, bisogna dire che la gentilezza è educata, la non gentilezza non è mica educata. È maleducata. Cioè, se c'è la gentilezza puoi fare tante cose, per esempio temperare una matita, metterti un cappello, fare un tuffo, ma non un tuffo a bomba. Perché se c'è la gentilezza non serve fargli schizzi, non serve fargli schizzi, insomma, il tuffo a bomba quindi avete è maleducato. Capito. Cari ascoltatori, la domanda chi sono le sardine, la risposta è quella. Va bene, senta, le chiedo questo, cambiamo discorso. State dipingendo piazze e strade, ho visto, al grido di Black Lives Matter, no? Sì, questo è proprio fare politica. Sì, ma guardi, George Floyd. Le rispondo con una domanda. Quando davanti al bar c'è un portaombrelli, perché tutti lo usiamo come cestino? Cioè, soffiamo il naso e buttiamo dentro il fazzoletto nel portaombrelli. E allora mi chiedo, perché non mettere gli ombrelli nel cestino? Che tanto se sono pieghevoli diventano corti e ci stanno. Ecco, mi rendo conto che sono stato un po' diretto. Sono stato un po' troppo diretto, ma mi permetto di parlare a nome di tutti quando dico che se ti regalano una candela a Natale è perché ce l'avevano già in casa. Cioè, è il momento di dire le cose anche chiaramente, no? Nessuno compra una candela per fare un regalo. La candela la ricevi, la ricicli senza neanche bisogno di incartarla. A questo punto vorrei lanciare un appello, posso lanciare prego, un appello? Sì, anche rispondere a una domanda se ogni tanto potrebbe, cioè, prego. Piuttosto della candela, meglio un sapone che almeno lo usi. Chiedo scusa se ho alzato i toni, ma noi come sardine siamo stufi di questi leader politici che non si espongono. Stufi è un po' poco male... un po' poco educato, stufi. Ha ragione, chiedo scusa per questo termine anche volgare. Sono un po' annoiato, ecco, diciamo così, annoiato. Leader politici che non si espongono. Però ecco appunto, questo adesso arrivano le regionali. Allora il vostro leader ha lanciato un appello alle forze di sinistra. Mi scusi un attimo. Mi veniva voglia di fare una pernacchia, mi sono scusato prima. Ma a me? Però l'ha fatta con educazione. Il vostro leader ha lanciato un appello alle forze di sinistra perché rimangano unite alle regionali. Ecco, esattamente. Anche questo è far politica. Ma guardi, io ci ho riflettuto a lungo, adesso mi sento sicuro anche quando dico che il mio animale preferito è il gufo. Cioè, per quanto riguarda gli animali notturni, invece tra gli animali diurni è la giraffa. Io dico sempre che la vita è come una giraffa. Se ha il collo lungo riesce a prendere i cereali dagli scaffali in alto senza far cadere tutto. Può cambiare una lampadina senza bisogno della scala, puoi fare il muro a pallavolo. Con questo non voglio dire che vale meno chi fa il bagger, perché dobbiamo dare dignità anche al bagger nella pallavolo. Certo, ecco, ma cosa c'entra con le regionali? Ho risposto alla sua domanda in modo esauriente. Ma guardi, questo è il problema, è sempre questione di educazione. Certo, sono stato un po' diretto. Questa è l'unica cosa che abbiamo capito, anche la pernacchia educata. Di dire le cose prima, con chiarezza, è il momento di dire le cose con chiarezza e chiedo scusa se ho alzato i toni oggi anche più del solito, ma ci facciamo condizionare dai leader maleducati degli altri partiti. Sì. Signora Legno, noi la ringraziamo, vuole salutarci con una pernacchia educata a tutti gli ascoltatori anche e dare l'appuntamento a lunedì magari? Ma guardi, educatamente do l'appuntamento a lunedì, uno, nessuno, 100.000 ci sarà pacato come al solito. Buon fine settimana. Grazie. A lunedì. A lunedì. Nessuno, nessuno, 100.000 anni.